se in autobus perdo l'equilibrio e pesto il piede a qualcuno, vi rivolgo uno sguardo contrito e gli dico mi scusi. È un piccolo rituale sociale, imposto dalla buona educazione, ma non è privo in sé di un significato abbastanza complesso. Con quel mi scusi io riconosco d'essere in colpa per il pur modesto oltraggio inferito a un mio simile. Ne dichiaro l'involontarietà e chiedo alla parte lesa di sanzionare, sia pure con un semplice accenno del capo, con un mezzo sorriso, con un di niente buttato via denti stretti, la relativa situazione di non ostilità sociale. Gli ho pestato un piede, è vero, è proprio oggi che disdetta mi sono messo gli scarponi chiodati, ma sono cose che capitano e io non mi considero suo nemico e desidero che lui mi assicuri che a sua volta non mi considera tale. Una volta avuta tale assicurazione, sarò libero di proseguire per la mia via, certo di non lasciarmi alle spalle pendenze sgradevoli. O meglio, potrò farlo se parlo una lingua neolatina. Perché non so se l'avete notato, ma in queste situazioni le usanze linguistiche nelle principali nazioni europee non coincidono completamente. E se il francese pardonné o lo spagnolo discúlpeme riflettono abbastanza fedelmente il nostro mi scusi, forse un po' più formale lo spagnolo, forse un filino più disinvolto il francese, specie nella forma concisa pardon normalmente in uso, ma sono cose che dipendono dalle rispettive consuetudini della vita associata. Se queste formule si corrispondono, ben diverse sono quelle in uso nell'area germanica. Gli anglofoni, come noto, si accontentano di un sorry, che come noto vuol dire spiacente, il che significa ben vedere che a loro spiace sì di averti azzoppato, ma della tua reazione non gliene importa poi più che tanto, e quello di scusarli o non scusarli è un problema esclusivamente tuo. L'atteggiamento in merito dei tedeschi è ancora più autoreferenziale, perché di formule ne hanno una quantità, ma il più delle volte si limitano a buttare giù un rapido unschuldig, che significa la lettera non colpevole, nel senso che loro proprio non c'entrano, è stato un caso, può succedere a tutti, e comunque bisogno di chiedere la tua comprensione, non lo sentono. La comprensione in analoghe circostanze la invocano continuamente i greci, che dicono signomi, che vuol dire comprensione, appunto. Mi è sempre sembrata la formula più raffinata che abbia mai sentito impiegare in questi casi, un appello alla comune fallibilità di tutti gli esseri umani, no? Per usarla però bisogna avere appunto alle spalle molta più storia civile di quanto possa vantarne il nostro occidente barbarico. Ora io non so se pensasse a fenomeni del genere quel Benjamin Lee Whorf, che sviluppando certe tesi del suo maestro, il grande linguista americano Edward Serper, avanzò nel 1958 l'ipotesi per cui ogni lingua comporta una visione del mondo, nel senso che non serve a esprimere le idee ma a condizionarle, a formarle. È una teoria questa, l'ipotesi di Serper e Whorf, normalmente la si definisce, su cui i linguisti si sono azzannati a lungo e sul cui valore scientifico non si è mai raggiunta unanimità. Io personalmente, anche se ovviamente sono lieto di segnalare ai cultori della disciplina l'esempio delle formule di scusa, non ci ho mai creduto più che tanto. Mi è sempre sembrato che se è vero che le soluzioni linguistiche in uso in popoli diversi non sono sempre riducibili l'una all'altra senza residui, il che si può bene esprimere volendo con la formula di una diversa visione del mondo, non è poi così necessario far dipendere la cosa dalla struttura linguistica in sé. Molto dipende dai sistemi di valore che le varie comunità privilegiano, e più in genere molto dipende da quell'entità concettuale mal definita che sogliamo chiamare con il termine di cultura. Tutto sommato, anche un italiano, in circostanze in cui non ci si aspetterebbe, in cui uno ci aspetterebbe un mi scusi, e può rispondere con un non è colpa mia. Ce lo prova. Se mai di prove avessimo bisogno, il dibattito politico di questi giorni. E non è necessario pensare al mega dibattito televisivo di martedì scorso, quello in cui uno dei personaggi ogni volta che si veniva a parlare degli immani disastri che il paese sotto la sua guida ha subito negli ultimi 5 anni si limitava a rispondere con un convinto «io non c'entro». E lui è fatto così, e le scuse sono quanto di più radicalmente strane alla sua visione del mondo si possa immaginare. Ma forse solo lui, pensate agli altri, ai suoi collaboratori, ai suoi ministri, ai suoi portavoci e persino per ciò che compete ai suoi avversari. E a quelli che offendono la tua religione, quelli che definiscono nazista la legislazione di un paese amico, che si autodefiniscono autori di solenne porcata ai danni del cittadino e in generale offendono l'intelligenza e la buona volontà di tutti. Vi avete mai sentito scusarsi quelli? Se la campagna elettorale italiana si facesse in tedesco, si sentirebbero più un Schuldig alla Rai che sulla metropolitana di Berlino nelle ore di punta.